Vabbè, questa sera sono tante implicazioni che attraversano questa serata, almeno personalmente, penso anche come folletto. E il pretesto, la fortuna di avere uno strumento come un libro, come questo libro, che racconta quello che sta succedendo da anni in Valsusa, per noi è qualcosa che abbiamo sempre guardato con attenzione e che in qualche modo è sempre stato un po' significativo per quello che è la storia, il lavoro e le progettualità che il Folletto ha portato avanti, porta avanti in questi anni. Le implicazioni sono tante, nel senso che comunque appunto c'è Giobbe, che è una persona che conosciamo da anni e con cui ci siamo sempre confrontati su temi come l'agricoltura, il territorio, le infrastrutture, la cementificazione, un certo sguardo sulle comunità, su delle lotte, sullo sguardo rispetto al modo e al mondo in cui viviamo. E sono anni con cui appunto c'è sempre uno scambio anche legato alla rivista Nunatak, che poi Giobbe magari ci racconta di che cosa si tratta. E è una persona che in Valsusa c'è spesso e ha seguito da vicino tutta una serie di questioni. Per quanto riguarda noi, mi vengono in mente tante cose. Mi viene in mente La Terra Trema, che è questo progetto appunto con gli agricoltori del territorio, con i vignaioli un po' sparsi per tutta l'Italia, che è nato anche lì. L'inizio, diciamo, il momento in cui fondante di quell'esperienza è stato anche lì l'opposizione a un'infrastruttura grossa che avrebbe e ancora adesso pende come situazione, che è la costruzione della superstrada a Milano-Malpensa, e su quelle mobilitazioni abbiamo incontrato gli agricoltori. L'evoluzione è stata poi di interloquire con questi agricoltori, cercare di sviluppare uno sguardo, una progettualità, valorizzare il proprio lavoro, e quella è una delle cose che in qualche modo ci è rimasta come Folletto, e quella è diciamo una delle storie che ormai hanno quasi 10 anni di progettualità, di interscambi, di incontri appunto con gli agricoltori. Altre sono, ad esempio, c'è Domenico. Con Domenico questa battaglia fin dall'inizio l'abbiamo condivisa, e l'abbiamo condivisa con in quel momento Domenico era il sindaco di Cassinette Lugagnano, un paese qua vicino, lo dico per chi magari non è di qua, un paese di 1000 abitanti, con cui si è fatta una riflessione su che cosa il nostro territorio subiva e che cosa voleva dire quell'infrastruttura. Con Domenico anche lì c'è sempre stato uno scambio, un interloquire su quello che voleva dire opporsi a quel progetto e cosa voleva dire rilanciare uno sguardo di questo territorio. Con Domenico poi c'è l'esperienza più legata ad Abbiate Grasso e di questi mesi, di questo anno, che è appunto l'esperienza della lista civica e di mettersi in gioco su un piano, diciamo così, anche istituzionale, elettorale, e anche lì con uno sguardo rispetto alla città. L'altro pezzo è quello che abbiamo qua di fronte, cioè gli orti, gli ex orti, quest'area qua al di là della ferrovia. Sappiamo che c'è il cosiddetto piano Sogef, no? 3 palazzoni con 160 box, che vorrebbe dire un cambiamento radicale di una porzione di territorio a cui noi siamo legati per questione proprio fisica. È qua di fronte a noi, dentro lì c'erano gli ortisti da 40 anni, c'è questo momento, c'è la nascita del comitato, del Pagianuz, e una serie di lotte di sguardo rispetto a dire no a quel progetto. E l'altro aspetto interessante che ci ha sempre in qualche modo incuriosito, cioè la parte che ci piace, è quello che poi dentro lì accade, cioè in quella battaglia dire no al piano Sogef ha voluto dire poi trovarci con tutta una serie di soggettività anche lontane dal Folletto, appunto pezzi di istituzioni, pezzi di cittadini che hanno una storia differente dalla nostra, con cui abbiamo condiviso questa battaglia. E che cosa è rimasto e che cosa c'è? Nel senso che comunque anche in questi giorni, domenica, saremo a fare una grigliata dentro lì, con appunto la carica simbolica di dire no a quel piano, ma anche con un qualcosa che succede in un paese di provincia come l'Abete Grasso, in cui ci si instaurano delle relazioni e si costruisce, si immagina, si evoca un immaginario differente a quello che è il PGT o l'idea di sviluppo di una porzione di città anche abbastanza simbolica, perché appunto un territorio alle porte di Milano, alla periferia di Abete Grasso, dentro cui c'è qualcosa di simbolico ma anche di concreto, che in questi anni l'abbiamo attraversato, prima quando erano gli orti abusivi occupati dai pensionati e dalle persone che abitavano all'Annunziata, quando era occupata, quando non era un monumento, un'area dismessa, perché adesso di fatto è un'area dismessa anche se è ristrutturata, però gli abitanti non ci sono più, gli ortisti li hanno sgomberati, e adesso c'è qualcosa che in qualche modo sta nascendo, no? dal dire no al piano Soger. E lì sullo sfondo chiaramente c'è la Valsusa che in qualche modo, per quanto ci riguarda, penso che una serie di dispositivi, di meccanismi, di relazioni dentro lì sono simili a queste piccole battaglie molto localizzate, a relazioni che si instaurano dentro in queste battaglie. Quando abbiamo visto il libro edito da Deriva Prodi, curato dal centro sociale occupato e gestito di Torino a Scatasuna, ci siamo subito interessati, perché era appunto andava al di là del discorso prettamente tecnico di che cosa vuol dire una grande opera come la costruzione del TAB, ma cercava un attimino di mettere per iscritto, arriva il nostro treno, prendilo. In questi anni siamo andati spesso in Valsusa, e quello che ci portavamo, con la consapevolezza che quello era un progetto, un'infrastruttura gigantesca con tutte le conseguenze tecniche che succedevano in quel territorio, andavamo, e ogni volta che andavamo tornavamo arricchiti, o comunque vedevamo qualcosa che era simile in grosso, in grande, e con quello che poi sappiamo tutti come ha condizionato poi l'agenda politica, un immaginario politico, l'idea di un'idea diversa di società. Cioè tornavamo e qualcosa ci succedeva, nel senso che comunque tornavamo a casa arricchiti da quell'esperienza. E forse, non lo so, se adesso poi Gianluca magari ci racconta che cosa c'è dentro in quel libro, però in qualche modo viene raccontata una serie di soggettività, di protagonisti di quella battaglia, forse differenti, però accomunati da qualcosa, e qualcosa stava succedendo. Non lo so, io mi fermo qua, e sono un po' gli stimoli o le ragioni per cui siamo qua stasera, abbiamo voluto presentare questo libro, cercando appunto di riportare quella battaglia, quella narrazione che per noi è fondamentale, è importante indagarla, conoscerla, attraversarla, perché forse ci sono dei pezzi importanti che ci riguardano e che ci hanno in qualche modo coinvolti come spirito e come soggetti, che poi sia in Valsusa ma ad Abete Grasso insomma abbiamo attraversato questo tipo di sguardi e questo tipo di battaglie. Non so, io farei questa cosa qua, nel senso che appunto poi tra l'altro appunto Gianluca, sicuramente la Scatasuna, Giobbe, so per certo che appunto il rapporto con quel territorio, con quella battaglia è forte, è impregnato di anni, mesi, giornate di lotta e di vivere proprio lì, e anche Domenico, appunto, come amministratore, come figura istituzionale e come relazione con magari le istituzioni, con i sindaci della valle, spesso l'abbiamo incontrato in Valsusa. Quindi era bello, insomma, il tentativo era un po' di raccontare la Valsusa e di metterla un po' allo specchio, abbiamo detto, con quello che accade anche nei nostri territori. Questo è un po'.